Il 12 maggio c'è stata una conferenza stampa nel sindacato dei giornalisti intitolata Liberate l'Egitto, indetta dal Fronte per la Liberazione dei Manifestanti. La conferenza è basata sul lavoro del fronte che si occupa di 7 casi diversi di ragazzi e ragazze arrestati. Questa conferenza è nata dalla necessità di denunciare tutto ciò che il governo di Morsi e della Fratellanza stanno facendo in questi ultimi mesi. Ascolteremo la compagna Rasha, gli avvocati del fronte e le famiglie dei ragazzi arrestati. Ora sentiamo la testimonianza di Rasha. Siamo davanti a una situazione molto strana, in quanto molti degli arrestati e delle arrestate neanche si trovano per strada o negli scontri. Mohamed Morsi, o il cosiddetto presidente eletto, e il lavoro della sua banda è quello di arrestare ragazzi o al di sotto dei 20 anni o addirittura minorenni. Questo è un messaggio molto importante che ci fa capire chi sono le persone per strada che continuano la lotta. La maggior parte dei processi sono senza capi d'accusa. Il nostro lavoro come gruppi politici o gruppi rivoluzionari è quello di essere solidali agli arrestati e alle arrestate. Rimarremo solidali e lotteremo insieme a tutte le ragazze e ragazze che sono imprigionati nelle carceri di Morsi. Ora ascoltiamo un'avvocatessa del fronte. Volevo innanzitutto sottolineare che le fondamenta del lavoro del fronte per la liberazione dei manifestanti è dato grazie al lavoro incessante che fanno attivisti e attiviste e persone che volontariamente decidono di lavorare con noi. Purtroppo abbiamo moltissimi minori che vengono arrestati o addirittura processati. Spesso vengono tenuti illegalmente insieme a maggiorenni dentro le carceri. Moltissimi anche i casi delle persone diversamente abili che vengono arrestate. Quello che accade ultimamente è anche l'aumento degli arresti delle donne e delle ragazze. E questo è un messaggio chiaro da parte del governo che al di là del genere, che tu sia uomo, donna, bambino o bambina, le persone vengono arrestate nell'intento di spargere la paura e il terrore, evitando così che le persone continuino a ribellarsi e a scendere per le strade e nelle piazze. Un altro punto importante è la campagna Tamarrud, che si occupa di raccogliere firme per far cadere il presidente. Loro stessi vengono arrestati, ma quello che noi continueremo a fare è continuare la lotta nonostante la repressione, insieme a tutti coloro i quali lottano per la propria libertà. Iniziamo a sentire uno degli avvocati del fronte che si occupa del processo dei Black Bloc. Volevo appunto iniziare a parlare delle violazioni di giustizia riguardo al processo dei Black Bloc. Come prima cosa abbiamo potuto vedere le 4 pagine che dovrebbero provare l'accusa di questi ragazzi. I servizi segreti hanno scritto un decreto che non abbiamo potuto vedere. Quindi tutto ciò che ha a che vedere con il processo è totalmente una farsa. In questo processo ci sono delle violazioni di giustizia pesantissime e qualsiasi passo venga fatto dalla difesa non viene minimamente calcolato. Questo perché il processo è fabbricato ad arte. E ora ascoltiamo la testimonianza della madre di una delle ragazze arrestate dopo gli scontri dell'Alta Corte. Mia figlia Nahed vale più di 100 uomini. Il presidente Morsi aveva dichiarato che avrebbe fatto uscire tutti i prigionieri e le prigioniere. Non che avrebbe arrestato e colmato le prigioni dei nostri ragazzi e dei nostri figli. Chi dice una cosa dovrebbe essere in grado di attuarla. Mia figlia Nahed viene privata della sua libertà e delle cure mediche nonostante le sue condizioni di salute non lo permettano. Io sono divorziata da 7 anni e la mia situazione economica non mi permette di portarle tutto ciò di cui ha bisogno dentro il carcere. Perché mia figlia è dentro, mia figlia deve uscire. Adesso ascoltiamo la testimonianza del padre di uno dei ragazzi dei cosiddetti Black Bloc che è stato arrestato. يوم الجمعة 19/4/2013 الساعة 5:45 صباحا. إسلام هو studente nell'Università del Cairo nella facoltà di giurisprudenza. Islam è stato arrestato il 19 aprile alle 5 del mattino dal proprio letto dai cosiddetti visitatori della notte. Erano 6 squadre speciali che hanno fatto irruzione nella nostra casa, erano tutti bardati. Sentivo che stavano per buttare giù la porta di casa, quindi l'ho aperta. Mi sono ritrovato in casa una 60 di guardie completamente bardate con l'ispettore della sicurezza. Hanno puntato le pistole contro mia moglie e sono entrate nelle camere da letto delle mie figlie. Non hanno rispetto per nulla, hanno trascinato mio figlio dal proprio letto. Mi sono ribellato contro queste modalità violente e il risultato è stato che mi hanno puntato 5 pistole alla tempia. Sono andato verso mio figlio, l'ho fatto vestire e ho chiesto il mandato d'arresto. L'ispettore ha rifiutato di mostrarmelo, gli ho chiesto quale fosse l'accusa, non ha voluto rispondere. Mio figlio è stato ammanettato e portato in questura senza nessuna accusa. All'interno del carcere mio figlio è stato spogliato da uno di loro ed è stato picchiato ripetutamente con schiaffi e pugni. È la situazione della repressione in questi ultimi mesi da quando Morsi e la sua banda sono al potere. E inoltre iniziamo a sentire casi di denuncia con l'accusa di apostasia. E un altro punto importante che il sistema usa sempre nell'ottica della repressione è l'aumento sconsiderato che può arrivare fino a 3.000 lire egiziane delle cauzioni. Ma nonostante la pressione e la repressione sia economica che politica in cui ci troviamo, con rabbia e con amore continua la guerriglia.